accetti e già sottratta morte io dovrei al tuo amor la sua mercede ma savi per se o sappi che di mia libertà questi che il cielo mi lascia tu mercè miseri avanzi rendono la mia vita dello stesso morir meno gradita nulla dunque tu prezzi del mio provvido amor le prove il merito gratitudine e vieta e che fia mai che tenda nuove insidie alla mia pace una fiamma vivace che dall'eso gentil nel cor m'accese più misera mi fa di quel che fu spietata fagna lui che è immerso in mille oggetti nulla cura il tuo amore o non lo sa o non lo crede Thank you. Dolor di amor non provo, di amor Oh, Limpide, Mi piace mille, Oh, yes. 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有限调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友您好，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的音乐节目。在接下来的歌舞剧场节目时间里，请大家继续欣赏维瓦尔第的歌剧《安德罗姆达·里贝尔塔》，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。 Speri giammai per te, propizia stella. Ah, che benium avvegio, che traspimi di morte stai sospeso. Perché forse non sai, povero Alpinar, vive al dolore. Thank you.

vinden schall und die Liebe schall. Vedi, ti vuole bene, vedi, ti vuole bene, io non girerò l'inverno. già vinto due volte, ho persi o amato. Io mi togliesti le catene ai piedi, l'oscia costante amore per madre bella fe, le piedi al cuore. Dunque Dio non t'accende quella fiamma, onde pria arde il cuore. Questa la mia vendetta, il dissi è vero, ma sol per prova della tua costanza, il timore, la speranza, la gelosia, l'amore, mi fecero soffrir pene di morte, ma le orde la tua sorte, via che t'ame e disprezzo, costanti adorator, serpa la fede. Thank you. fino ad indorar sul sangue il mondo. Vedrai le nostre facce in nobil gara ad infiammarsi il petto. Tu pure del mio affetto scoprirai le finezze per comprire l'onor di questo giorno. E Arcadia scorgerà che il ciel destina che tu sia la mia sposa e mia regina. che andiamo al tempio dove sull'are preparate il grande sacrificio si consumi e rendasi d'onor ai sommi dei qui del nostro gioir devesi il merto andiam meliso da se lieti auspici sperarmi giova per favor de voi il cielo ogni or sereno la greggia lieta il praticel più a me thank you. Fantasio, che tardi più, vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori accolti per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non vecchi più di Megova, immirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Sì, che i gravi miei danni quanta pietà ti avesti, e il ricordo creder non ti posso, bugiardo adorator di mia fortuna. Andiamo Perseo al tempio e visitiamo in presenza dei numi il vuoto e il giorno. Sì, e quindi nasca l'augurio fortunato, non amore tra noi sempre beato. Thank you. riconosco in voi più bello il godimento, ne vi addormento, ne vi addormento di colla dal voler. Perseo, che tardi più, e degli allegri cori di ninfe e di pastori accolti, per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non vechi più di Megova, in mirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Sfrite i gravi miei danni, quanta pietà ti avesti, e mi ricordo, creder non ti posso, bugiardo adora porti mia fortuna. Abbiamo Perseo al tempio e vi si chiudo, in presenza dei lumi, il vuoto, il giorno. Non si, quindi nasca l'augurio fortunato d'un amore tra noi sempre beato. Thank you. riconosco in voi più bello il godimento, ne via tormento, ne via tormento di colla dal modello. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。